Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. È costata molto cara al Barcellona la semifinale di Tokyo di stamane al Mondiale per club, perché l'ha vinta, sì, per 4-0, ma ha perso David Villa, e cioè il suo attaccante principale, per una frattura alla tibia, niente meno. Grave incidente all'attaccante del Barcellona David Villa, che ha subito la frattura della tibia destra durante la semifinale mondiale per club. Lo spagnolo ha fatto sapere il club blaugrana, è stato portato in ospedale per gli esami e le prime cure. Si è infortunato al 38esimo del primo tempo mentre seguiva il pallone con due avversari, ma non ha subito falli o contrasti particolarmente pesanti, sicché questa evidentemente è stata una prima diagnosi e, se vogliamo, magari anche un po' frettolosa, però insomma una tibia in genere se si rompe una tibia si vede, è difficile equivocare. E una frattura di questa gravità senza contatto con l'avversario è davvero molto ma molto preoccupante, oltre alle conseguenze poi, che saranno evidentemente assai gravi per il Barcellona in primo luogo, ma saranno gravi anche per la nazionale spagnola, perché questa rottura della tibia di Villa riverbera inevitabilmente i suoi effetti anche sulla nazionale di Spagna, e quindi su Italia-Spagna direttamente, che sarà la prima partita dei prossimi europei. Sette mesi scarsi a questa partita, c'è il tempo indubbiamente di guarire, ma chissà se c'è anche di recuperare, di trovare la forma, eccetera. E quindi mi pare che gli attacchi sia di Italia che di Spagna davvero siano falcidiati, no? da infortuni di ogni genere. Uno traumatico di Giuseppe Rossi, che Prandelli ha perso già da tempo, quello subdolo è assolutamente fuori norma di Cassano, e sono i due attaccanti italiani di cui Prandelli spera di recuperare per l'europeo, ma ovviamente al momento senza particolari garanzie. E adesso arriva dal fronte spagnolo quello di Villa, che mette nei guai prima Guardiola ma poi anche il CT del Bosque. Indubbiamente sono tanti gli argomenti di oggi, alcuni sono ereditati da ieri, perché più tardi ieri abbiamo commentato a caldo le notizie che arrivavano sia dal cosiddetto tavolo della pace, che poi della pace non è stato, sia soprattutto sul fronte della tessera del tifoso. Oggi a bocce ferme e dopo alcuni sviluppi, vediamo di fare il punto su queste due situazioni che sono sempre molto che vi chiamano sempre in causa in modo particolare. Lo valuto dal numero di messaggi, di lettere, di mail che arrivano su questo genere di argomenti. E poi c'è la Roma scossa dal caso Totti, ma se parliamo di Roma mi pare che la precedenza la meriti la Lazio, perché sia pure all'ultima partita utile, comunque il suo dovere di qualificarsi l'ha fatto, e non c'è dubbio che questo risultato, così come speriamo quello di stasera dell'Udinese contro il Celtic, faccia del bene anche proprio al calcio italiano di club in generale, perché sapete che il ranking UEFA dipende anche, e forse non soprattutto, ma dipende anche e notevolmente da questi risultati. Dunque la soddisfazione di Reia e la proiezione già sui prossimi turni di Europa League, che indubbiamente proporranno avversari molto impegnativi. Anche se arriva subito il Manchester City o il Manchester United, mi va bene lo stesso, perché sarebbe una grande festa e anche così un riconoscimento ai tifosi della Lazio, che possono vedere questo tipo di squadre qui all'Olimpico. È chiaro che egoisticamente parlando mi piacerebbe avere qualche squadra un po' più facile, no? Però sarebbe comunque bello, perché passare il turno, che oramai era quasi compromesso, almeno pensavamo 15 giorni fa, invece abbiamo accettato l'obiettivo, grande merito dei ragazzi. E niente, ed è giusto che la Lazio passi così come era nelle previsioni all'inizio. Beh, è vero, la Lazio sembrava molto inguaiata o forse addirittura praticamente fuori dal girone, invece alla fine ha recuperato e ce l'ha fatta. E quindi il bilancio laziale di questo girone d'andata, di questa diciamo prima fase di stagione, anche se mancano ancora due partite e già la prossima Lazio-Udinese domenica sera è uno snodo cruciale, il bilancio della Lazio è a questo punto abbastanza nettamente positivo, perché il girone di qualificazione in Europa è superato e la squadra è al secondo posto, al terzo se vogliamo in campionato, ma comunque sul secondo gradino, alla pari col Milan e a soli due punti da Juventus e Udinese. Dicevo che stasera tocca all'Udinese, che a sua volta ha un tour de force addirittura più probante. Perché? Perché stasera si gioca l'Europa League, sia pure in casa e sia pure potendo disporre di due risultati su tre, perché basta il pari con il Celtic. Ma poi stiamo parlando di giovedì alle 21.05, ma poi alle 20.45 di domenica va a giocare sul campo della Lazio e alle 18 di mercoledì riceve la Juventus. Dunque in meno di una settimana ha tre appuntamenti davvero cruciali. Sentiamo Guidolin. Io sono fiero dei miei giocatori, orgoglioso di loro, orgoglioso del lavoro che stanno facendo, e spero proprio che questa settimana ci dia ancora soddisfazione. Sarà dura perché, tra le altre cose, noi faremo tre partite estremamente importanti in sei giorni e francamente mi viene da chiedere come mai, però è così. Volevo solo sottolineare che per noi, mi sembra, se non sbaglio, è già la seconda volta che ci capita di fare tre partite in sei giorni. Non so quante altre squadre italiane hanno fatto questo tipo di sforzo, non lo so, magari tante, ma ho l'impressione che non siano tante. Io non sto polemizzando e non voglio polemizzare con nessuno, mi sto chiedendo questo, solo questo, basta. Sì, insomma, quel sempre quel modo un po', no? di quando Guidolin indossa la tonaca del viceparroco, ma niente da dire sulla sostanza, perché è vero, poi che ci siano o non ci siano precedenti, tocca comunque, adesso tocca all'Udinese, questo calendario così zavorrato non l'ha inventato certamente l'Udinese, in questo caso lo subisce, ma in molti altri casi sono altre società a subirlo. Vi dicevo del caso Totti, la Roma nel senso di società, ma anche di tifoseria, in fondo anche di città, visto che è largamente maggioritaria come tifo in città, è scossa da questo caso, che è nato da quel rigore parato da Buffon lunedì sera e poi, come spesso accade nella capitale, si è amplificato, no, a dismisura, tra le critiche di qualche tifoso, il malumore di Totti, che già insomma non stava vivendo un periodo facilissimo, e poi adesso invece la marcia indietro, ma insomma la grande manifestazione d'affetto e di solidarietà da parte della maggioranza della tifoseria. Sentiamo un frammento di ieri sera in cui Totti denuncia il suo malessere. Sì, ci ho pensato soprattutto ultimamente, e se le cose continuano in questo verso continueremo ancora a pensarci. Se il problema della Roma sono io, ci penseremo. Mi dispiace sentire alcune dichiarazioni di soprattutto i tifosi romanisti nei miei confronti. David Viglia scrive Alberto in un messaggio: in fondo ha fatto un piacere a Pep Guardiola, visto che si leggeva proprio in questi giorni che fosse scontento e se ne volesse andare. Beh, insomma, adesso vediamo di non esagerare, no? David Viglia, ripeto, è un attaccante della nazionale spagnola, quindi è campione d'Europa e campione del mondo in carica attualmente. È il titolare del Barcellona, che sta avendo da tempo qualche piccolo problema di compatibilità, perché il ruolo dell'attaccante centrale o anche laterale nel Barcellona non è semplicissimo, perché deve essere sincronizzato con Messi e deve essere funzionale a fare spazi a Messi. Su questo se ne è dovuto andare Ibrahimovic, no, è una storia abbastanza recente che sappiamo, e su questo Viglia cominciava ad avere qualche problema di compatibilità. Da lì a dire che una frattura alla tibia risolve un problema a Guardiola mi sembra un po' tanto eccessivo, fermo restando che in ogni caso ne pone uno molto ma molto grave a Del Bosque, perché il Barcellona può puntare per il momento su Sanchez in attesa, immagino, di tornare sul mercato a gennaio per rimediare in qualche maniera a questo deficit improvviso, ma Del Bosque non credo possa fare altrettanto, deve andare in giro per la Spagna a cercare un altro attaccante del valore di Viglia e della prolificità di Viglia, non mi sembra un'operazione facilissima. Mi ha raggiunto, come anticipato prima, da Sole 24 Ore Marco Bellinazzo. Ciao Marco. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. Dicevo, a bocce ferme, e quindi 24 ore dopo di riflessioni, di sviluppi, di altri particolari, questi due argomenti, il tavolo della pace, che è rimasto zoppo, almeno di una gamba, ma forse anche di tutte invece. No, se fosse di tutto non sarebbe zoppo, ma insomma sarebbe un tavolo accorciato, dimezzato, vediamo come chiamarlo. E poi la tessera del tifoso. Ma prima di tutto questo, visto che si sta parlando di malumore e malessere romanista, in questo caso per Totti e per queste intemperanze di una parte, tra l'altro molto piccola, di tifoseria, mi pare però che anche in società Roma ci sia di nuovo qualche scossetta di assestamento. E per fare una battutaccia si potrebbe cominciare col dire che forse quei tifosi intemperanti che hanno contestato Totti li ha mandati Pallotta per risparmiare sui prossimi 2 anni e mezzo di contratto a circa 9 milioni di euro che legano ancora Totti alla Roma, ma è appunto una battutaccia. Insomma, battutaccia, però è un dato di fatto. Cioè, è un dato economico. Prima di andarsene, Rosella Sensi ha comunque blindato il contratto di Totti sino al 2014, cioè sino ai 38 anni di età. Lo ha blindato anche con un contratto che possiamo definire molto generoso, soprattutto considerando le condizioni fisiche di Totti. È un contratto che naturalmente riconosce l'importanza che ha avuto Totti nella storia, certo, della Roma, e si lega anche a un tipo di gestione familiare delle società di calcio che era appunto quello che ha sempre caratterizzato la gestione Sensi. Certo. Gli americani evidentemente ragionano in altri termini. Quello che è accaduto ieri in società, per arrivare alla tua domanda, è più di un colpo di Stato, come qualcuno lo ha pur definito. Erano stati sollevati dei dubbi sulla tenuta economica di Thomas Di Benedetto, del presidente, e ricordo benissimo che fin dall'inizio quello che veniva considerato il vero presidente della Roma, cioè chi aveva i soldi, chi poteva mettere mano al portafoglio, era appunto James Pallotta, che evidentemente stanco forse delle titubanze e si dice anche abbastanza arrabbiato per il tentativo di Benedetto di procurarsi questo assegno da 1,2 milioni quale presidente della Roma, abbia appunto rotto gli indugi e ieri il consiglio di amministrazione, come già si annunciava peraltro da alcuni giorni, è stato sostanzialmente cambiato con l'inserimento in CDA di due nuovi amministratori, in particolare Mark Pence, che sarà diretta emanazione di Pallotta. Di Benedetto resterà come presidente onorario, ma di fatto è Pallotta che, come ha rilanciato in America i Boston Celtics, di cui è appunto coproprietario, immagino vorrà fare anche con la Roma. Ripeto, Pallotta è quello che ha i soldi ed è quello che ora comanderà a Roma, Unicredit permettendo. Aveva, diciamo che Di Benedetto era il suo proconsole, insomma, vestito, no? con tutti gli onori del caso e con tutta la ridondanza del caso. Adesso invece il ruolo di Di Benedetto mi pare ridimensionato. Sì, al di là di tutte appunto le formalità, la sostanza è questo. L'altro aspetto su cui possiamo ragionare, se vuoi, è quello finanziario ed economico, perché per fine gennaio ci sarà un'assemblea della Roma che dovrà approvare questo aumento di capitale che era già nei programmi, nel piano industriale della Roma presentato dalla cordata americana. Dovrebbe essere intorno ai 50 milioni, il piano prevedeva come minimo 35 milioni. Bisognerà vedere se sarà sufficiente a ripianare le perdite della Roma e a permettere quel rilancio che la proprietà, certo, a stelle e strisce aveva promesso. Di fatto per il momento i soldi li ha messi Unicredit dall'inizio e continua a mettere Unicredit. E io credo che forse anche in Piazza Cordusio stanno un po' valutando se sfruttare o meno quella clausola di uscita che vale fino al 31 marzo prossimo, e quindi cedere una parte delle quote per evidentemente trovare nuovi acquirenti che vogliano investire nel calcio, così come Pallotta sta facendo in America, perché anche Pallotta sta cercando nuovi investitori a stelle e strisce che vogliano appunto puntare delle fish sulla Roma. Sai, poi sulla Roma si è parlato tanto in questi mesi di turchi, cinesi, arabi. Pallotta è uno che vuole comandare, lo ha dimostrato con questa iniziativa nel CDA. Vedremo se sarà facile lanciare una squadra di calcio così come è stato per una squadra di basket. Un tuo omonimo, Marco, ci scrive un messaggio molto ben documentato. Viglia, racconta, ha appoggiato male il piede sinistro in mezzo a due avversari e ha fatto un movimento innaturale cadendo proprio su quella gamba. Io con un movimento simile, ci racconta sempre questo ascoltatore, ho rotto il malleolo peroneale. Ma infatti il malleolo peroneale sarebbe un conto. La tibia mi sta un po'... cioè mi sembra strano, mi sembra molto più grave, molto più naturale ancora. Lo stesso Fabregas scrive ancora, Marco, si era rotto il perone in circostanze analoghe. Mentre invece un altro ascoltatore da Udine informa, dice, guardi che a gennaio Sanchez rientra a Udine perché ha problemi con Messi. Beh, insomma, problemi con Messi perché Messi gli era messa male, forse a Madrid l'altra sera, quell'assist del gol 1-1, potrebbe essere questo. No, il problema di Sanchez è un altro, che è un altro problema del Barça, che... anche Sanchez è uscito dal campo per infortunio, cioè era entrato per sostituire Viglia oggi in questa semifinale mondiale alla vigilia della finale col Santos e però dopo un po', cioè a 20 minuti dalla fine, si è toccato la coscia dietro dove già aveva avuto dei problemi seri che l'hanno tenuto fuori due mesi e per precauzione è uscito. Adesso bisogna vedere se per caso Guardiola non ha perso anche quest'altro attaccante. Io ti proporrei di ascoltare un paio di contributi vocali che arrivano da ieri e poi su questa base arricchire un pochino quello che può accadere adesso nel calcio italiano, ma io partirei soprattutto da che cosa ha detto Petrucci. Le scorie di Calciopoli sono ancora molto scottanti, per cui diciamo che la realtà è che ognuno è rimasto sulle proprie posizioni. Si è parlato, ma il risultato, lo devo ammettere, è quello che vi ho detto. È chiaro che in questo momento io mi auguro che il mondo del calcio possa portare avanti quelle riforme, quegli interventi che servono, e poi sarà mia cura e premura portarli all'attenzione del governo. Per cui io sono onesto e sincero, non posso non dire la realtà. Quello che volevo dei passi avanti, in realtà questi passi avanti, al di fuori di belle discussioni, non ci sono stati. Ognuno è rimasto sulle proprie posizioni. Io intanto vi ricordo che potrete, soprattutto potrete, dopo l'intervallo intervenire in diretta, come sempre, all'800 24 00 24. Dopodiché, Marco, mi pare il passo, insomma, l'ammissione di se non di un fallimento, comunque di un esito sfavorevole era già di ieri. E questo passaggio invece di portare all'attenzione del governo che cosa? Sì, come avevamo raccontato già il giorno prima del tavolo, Petrucci e Abete erano andati dal nuovo ministro e alla delega sullo sport, Gnudi, per discutere di quelle che erano evidentemente le esigenze di riforma della legislazione dello sport, in particolare del calcio. Sul tavolo c'è quella legge sul professionismo, la legge 91 dell'81, quindi ha ben 30 anni, che le società vogliono in qualche modo rivedere. Ci sono tanti altri temi legati per esempio alla tutela del brand, quindi alle normativa sulla contraffazione. C'è madre di tutte le leggi impantanate in Parlamento, la legge sugli stadi. Quella ormai, insomma, penso che forse è nato uno stadio con la polvere, la cancrena che quello disegno di legge ha preso ormai dopo. Fermo restando che con tutti i problemi che ha il governo nuovo attualmente sul tappeto, non so se sia già il momento di infliggergli anche quelli che riguardano il calcio. Probabilmente no, però sai, bisogna anche considerare quello che è il volano delle costruzioni nel settore edilizio, no? Mettere in piedi nuovi stadi può servire in maniera importante l'economia di un territorio, quindi semmai si può capire da questo come la discussione di ieri si sia arenata molti passi prima di arrivare, insomma, a discutere dei temi veramente importanti. Il futuro, no? Abbiamo evocato il tema del futuro, l'ha evocato anche il presidente del Napoli, De Laurentiis, che appunto forse un po' ingenuamente ieri ha detto... Io credo che il ruolo di Della Valle, di De Laurentiis, meriti un approfondimento. Intanto perché si era capito poi fino a un certo punto, no, il perché dell'allargamento di questo tavolo. E poi non è detto che sia stato, soprattutto da parte Della Valle, secondo certe ricostruzioni, un contributo positivo. Allora, c'è chi sostiene nella ricostruzione di quanto accaduto ieri in queste 4 ore e mezzo al tavolo, che in realtà qualche segnale, non di pace definitiva, questo era impensabile, ma di disgelo e forse anche di disgelo promettente ci potesse essere tra Inter e Juventus, o tra Juventus e Inter, non ha molta importanza la priorità. E pare che invece a guastare questa atmosfera potenzialmente favorevole sia stato Della Valle. Allora sentiamo che cosa ha dichiarato dopo. Tanto di vedere se c'era la possibilità di trovare un punto d'incontro, di convergenza. Siamo tutti fermi sulle proprie posizioni. E la lettura che gli do io è che Petrucci ci ha chiamato per sentire le nostre posizioni, che sono rimaste le posizioni che ognuno aveva, chiare, precise, tanto più quelle della Fiorentina sono nette, nettissime. E noi ancora dobbiamo capire per quale motivo siamo finiti in quella che viene chiamata Calciopoli. Quindi tra noi chiudiamo quando ci vengono riconosciute le nostre ragioni, altrimenti la nostra posizione sarà ad oltranza e ci difenderemo nel modo migliore. È stato un incontro civile da parte di tutti, quindi in quel senso lì, insomma, noi siamo disposti a discutere di tutto fino a quando le nostre ragioni vengano riconosciute, altrimenti la nostra posizione non cambia per niente. Ecco, lui che aveva evocato il tavolo per primo la scorsa estate è stato colui che lo ha affossato. Questo è quanto emerge dalle ricostruzioni, dalle retroscene che abbiamo letto e che in qualche modo abbiamo potuto fare anche direttamente. Si era preparato da parte del CONI e della federazione una sorta di documento per chiudere definitivamente con Calciopoli, una sorta di dichiarazione che portasse le firme di tutti i protagonisti, e evidentemente questo non bastava a Della Valle, almeno la formulazione, ecco, che era stata usata, ne voleva una più chiara, che rimarcasse le ingiustizie subite per esempio dalla Fiorentina in ambito processuale, mi riferisco ovviamente al lato sportivo, e che riabilitasse evidentemente la Fiorentina come la Juventus. E questo in qualche modo a Moratti è sembrato inammissibile, e da lì il nulla di fatto di cui poi abbiamo potuto verificare, insomma, il triste finale. Senti, in queste ore. Ancora due domande. La prima è una considerazione mia che ho fatto fin dall'inizio, ed è questa: se il problema vero del contendere, cioè il nocciolo esplosivo di questo problema, è il rapporto tra Inter e Juventus, non sarebbe stato più opportuno che il tavolo fosse a 6, e cioè Moratti e Agnelli, Valentini e Abete, cioè i due della federazione, e Petrucci Pagnozzi per il CONI. 2, 4, 6 sono i due enti, no, responsabili, e i due contendenti veri. Poi, una volta che in pura ipotesi si fosse riusciti a rappattumare il rapporto o a trovare una soluzione, una via d'uscita tra i due veri contendenti, beh, forse in un secondo tempo si poteva poi allargare il tavolo e magari dir grazie anche a Cellino, no, e lasciargli una porta secondaria, poi tavoli preziosi, a geometria variabile, tutti i vari statisti, no, che sono stati esclusi. Io credo che in questo momento prevalgano molto le questioni personali. Calciopoli ha svelato quello che era un sistema, se vuoi, di inquinamento del calcio. Ha fatto venire fuori quella che per la giustizia sportiva è una verità. Il processo penale a Napoli ne sta facendo venire un'altra, che è la verità giuridicamente, giudiziariamente accertata. Io credo che l'accanimento personale che c'è in questi mesi, in questi anni, perché il tavolo ha dimostrato che questo accanimento continuo e questa inimicizia ormai è palese e conclamata, sia il frutto di qualcos'altro. Probabilmente ci sono rancori personali, ma c'è anche, come dire, la consapevolezza che forse realmente quello che è stato scoperto è solo una parte della verità. Ora, il fatto che sia venuto fuori in quei processi una parte della verità è quello che poteva essere, e i processi servono per accertare quello che giuridicamente verificabile. Che ci sia stato altro è possibile. Il problema ora adesso è continuare a far credere che fosse tutto marcio, che ci fossero più cupole che agivano contro in quel momento, e quindi i risultati sportivi erano tutti falsi. E a quel punto però non vedo cosa ci siamo a fare io e te qui, cosa certo. È il mondo del calcio, le società, gli affari, 1,5 miliardi di fatturato che è la Serie A, esatto. Su cosa si regge? Allora, credo che il tavolo poteva avere sicuramente altri tipi di composizione, ed è stato un errore enorme, madornale, lo abbiamo detto oggi, lo abbiamo detto ieri. Calciopoli va accertata per quello che è possibile nelle sedi giudiziarie sportive. Il CONI e la Federcalcio devono badare in questo momento a puntare, diciamo, gli obiettivi sul futuro del calcio italiano, fermo restando le vicende giudiziarie che coinvolgono la FIGC. Questo è eclatante. Per farti comprendere, per far comprendere l'assurdità della cosa e la richiesta della Juventus, cito due numeri: 400 e passa milioni di risarcimento danni chiesti dalla Juventus 443. Alla FIGC con il ricorso al TAR del Lazio. Il fatturato, il bilancio, la disponibilità finanziaria della FIGC è di 180 milioni all'anno circa. Ieri Abete ha detto che dovremmo restare fermi 2-3 anni se dovessimo pagare certo. questa somma. Qui c'è qualcosa che non funziona, e non si può continuare a gestire le cose del calcio in questo modo. In questa maniera. Quindi, insomma, noi riconosciamo che in buona sostanza non ci capiamo un granché. Vediamo se ci capisce qualcosa di più chi chiede di intervenire. Francesco, Firenze, buongiorno. Buonasera, signor Bellinazzo e Granzini. Salve. Io vorrei un minimo di chiarezza sulla tessera del tifoso. Sì. Perché io abito a Firenze e per seguire il Milan 10 giorni fa sono stato costretto, diciamo, a fare questa carta ricaricabile cuore rosso nero. Ma dopo 10 giorni mi ritrovo becco e bastone. È saltata. Nel senso che non serve più. No, non è vero che c'è un problema di linea, però la domanda è abbastanza chiara. Non è vero che non serve più, vero Marco? No, serve nei limiti in cui viene usata. C'è la carta a valore, credo, annuale, dipende, insomma, su questo punto. Diciamo, dal punto di vista temporale si può usare non soltanto per una partita. Visto che è stato tirato in ballo cuore rosso nero, per esempio, possiamo chiarire un punto della decisione di ieri, che forse è il caso di precisare. Il Consiglio di Stato e il TARP dovrà decidere in base alle indicazioni del Consiglio di Stato. Ha detto che sono illegittime quelle in cui, diciamo, l'opzione della carta di credito ricaricabile è obbligatoria. Cuore certo. Rosso nero, che è la carta più diffusa, ce ne sono circa 350.000 sulle 800.000 tessere del tifoso fin qui distribuite, ha la possibilità di disdire la parte, diciamo, della carta di credito. E certo. Quindi, diciamo, questo dovrebbe garantire la liceità dello strumento. Altre carte, altre società invece non hanno questa opzione, cioè sono obbligatorie, quindi tu fai la tessera del tifoso, hai la carta di credito e paghi tutti i costi della carta di credito, e quelle per il Consiglio di Stato rappresentano una pratica commerciale scorretta. Antenore, provincia di Milano, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Dica. Ma senta, prima ho sentito la sua considerazione sul tavolo, diciamo, della pace, giusto? E concordavo con lei sul fatto che i temi che probabilmente dovevano essere interpellati erano Juve Inter con i 4 personaggi del CONI, FIGC e cose di questo genere. Io credo che, a parte che sono anche stanco sempre di sentire questo tavolo, questa calciopoli, queste cose, la cosa che mi sorprende di più è proprio l'arroganza bianconera, perché se proprio vogliamo essere pignoli dobbiamo ripartire dal 61, lei si ricorderà probabilmente, quando il presidente Umberto Agnelli cambiarono in corsa le regole dell'invasione di campo per far ripetere una partita all'Inter, voglio dire. Quindi Calciopoli è solamente la parte finale. Poi questa arroganza bianconera, dove condannano i dipendenti, Caricco e altre cose, e loro sono sempre fuori, credo che ci vorrebbe un minimo di dignità e starsene veramente zitti. In che senso? Ok, grazie. No, dunque, io faccio un po' di confusione. Non so, Caricola era nato già nel 61, no, perché la domanda non so, credo sia, potrebbe anche essere quella. Non so cosa c'entri Caricola, soprattutto non so cosa c'entri il 61, che era stato un episodio molto ma molto discutibile, che era frutto sì di un'epoca. Di un'epoca discutibile da parte di gestione del calcio italiano, però adesso se dal 61 al 2006 tutto va rimesso in discussione. Quello che vorrei dire, Gigi, per esempio io non sono d'accordo con la tua tesi di avere soltanto Juve-Inter, perché se si mette in discussione l'impianto della giustizia sportiva si mette in discussione tutto quello che è stato, diciamo, deciso in quella sede, e quindi anche le condanne che hanno lambito la Fiorentina, anzi colpito la Fiorentina, lambito il Milan. E quindi a quel punto, se il tema era riconciliamoci perché i giudici sportivi hanno fatto troppo in fretta, perché questo voleva certo, la Juventus, certo, allora dovevano esserci tutti, altrimenti il tavolo della pace non si fa. Però Marco, tutti Cellino no, perché non c'entrava nulla. Allora però io non voglio lì la Fiorentina che ci ha rimesso, è vero, ma ci ha rimesso in punti di penalizzazione che poi non si sono concretizzati in nulla in negativo. Io ci voglio lì Bologna, ci voglio lì Gazzoni, le parti civili che sono nel processo, quelli che hanno avuto i veri danni da Calciopoli e da tutto quello che è accaduto a Calciopoli, e questi che oggi piangono come della, beh, insomma, lasciamo, perché sennò ci rimettiamo in una spirale che invece lasciamo sì, no, gli ascoltatori a decidere. Se poi vogliamo un momento di buon umore per rifarci la bocca verso la fine della puntata, ce l'abbiamo, perché c'è un altro presidente che ieri sera ha fatto un intervento divertente. Io sentirei ancora velocemente Sergio, ha chiamato da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo parlare del Barcellona. Io premetto che sono un tifoso milanista, però se voglio vedere giocare calcio negli ultimi 3-4 anni bisogna vedere il Barcellona. Poi, per quanto riguarda Viglia, risolve i problemi quando c'è e non quando non c'è. E se, secondo me, il Barcellona dovesse tornare sul mercato, io vedrei alla grande Totò Di Natale in un gioco come il Barcellona. Cosa ne pensate? Grazie. Non lo so, Sergio. Io penso che per forza i problemi uno li risolve quando c'è e non quando non c'è. Sul resto non ho idea. Sinceramente il mercato del Barcellona lo lascerei fare a loro. ...15 dicembre nella libera interpretazione di Nicola Filippone. Sembra ieri. 15 dicembre 1991. Pierluigi Collina, 31 anni, arbitra per la prima volta un incontro di Serie A. Succede al Bentegodi, dove il Verona batte 1-0 l'Ascoli. È l'inizio di una carriera densa di riconoscimenti. Il designatore Casarin intuisce subito che l'arbitro viareggino ha un altro passo e gli affida complessivamente 8 partite di massima serie, un record per uno alla prima stagione. Nel 1995, quando le partite arbitrate in Serie A sono diventate 43, Collina debutta in campo internazionale con Turchia-Francia. Quando si ritirerà nel 2005 da personaggio di primo piano del calcio mondiale, cosa tipica per un arbitro, potrà esibire un bilancio notevole, con 240 gare dirette in Serie A e 109 a livello internazionale, tra cui la finale delle Olimpiadi del 96 tra Nigeria e Argentina, quella della Champions League tra Bayern Monaco e Manchester United nel 99 e quella mondiale tra Brasile e Germania nel 2002. Va bene, allora torniamo agli interventi degli ascoltatori, all'argomento di oggi e di ieri, al ruolo che hanno giocato ieri i presidenti. Ma prima però sentiamo un altro grande presidente, il presidente del Milan, ieri sera alla festa del Milan, in un frammento davvero d'autore. C'è una grande squadra, il Barcellona, che applica quel gioco che a me piacerebbe di vedere applicato al Milan e che io applicavo quando facevo l'allenatore dilettante, con dei ragazzini che non facevano un passaggio più in là di 4 metri e che riuscivano a chiudere la partita con il 70% di tempo di possesso palla. Credo che il Milan abbia i giocatori per poterlo fare. Manca, credo, la volontà di praticare un gioco che sia totalmente lontano dal gioco tradizionale che conoscevamo del calcio. Manca la volontà di non fare i corner, di non fare i traversoni, di non fare i lanci lunghi, cioè di non azzardare palle che hanno molte probabilità di finire nei piedi degli avversari. Il Barcellona non è che ha, pesando un per uno i giocatori, dei giocatori di classe più di quanti ne abbia il Milan. Io quando facevo l'allenatore dilettante, i lanci lunghi poi erano i tempi di De Gasperi, quelli, no? Mi pare, era tutta un'altra epoca, ma quando facevo l'allenatore dilettante, il gioco evidentemente era un altro gioco. Vabbè, ci siamo un po' tirati su il morale, pare che da 2-3 settimane a questa parte fa un altro effetto, no? sentire queste digressioni calcistiche. Magari si può discutere anche sulla qualità dei giocatori milanisti in rapporto a quelli del Barcellona, ma insomma tutto è relativo nella vita. Marco, De Laurentiis, si diceva prima, ha provato a spostare un pochino in avanti il tavolo. Io credo che non fosse proprio la giornata ideale, ma lui adesso ha questo pallino, no? delle riforme, del grande riforma, di guardare avanti, eccetera. E quindi ci ha provato. Mi pare che il tentativo. Sì, c'era riuscito con il contratto collettivo. In fondo era stato lui a proporre l'idea di questo accordo ponte. Non so se sia stato effettivamente decisivo. Fatto sta che poi siamo arrivati a conclusione dopo un anno e mezzo di trattative di questo benedetto contratto collettivo, che però ricordiamo dovrà essere riscritto il prossimo giugno, e con i tempi che corrono non so se effettivamente il tempo sarà trovato, e soprattutto se calciatori e società si metteranno d'accordo. Ma questo è un altro capitolo, ne abbiamo tanti oggi, potremmo intitolare come tempo perso, il tempo perso del calcio italiano. Continuiamo a girare intorno a vecchi temi e i veri argomenti da affrontare per trovare delle soluzioni restano sullo sfondo, come ieri è rimasto zitto De Laurentiis, che infatti ha detto: sono arrivato qua perché mi hanno invitato, sarebbe interessante chiedere a Petrucci perché è stato invitato. Luca dalla provincia di Varese, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo parlare velocemente della carta del tifoso. Io ho la carta con il rosso nero. Allora, per quanto riguarda il discorso costi, penso siano legati solo al costo di emissione, perché io non ho neanche il conto in quell'istituto bancario che mette le carte del Milan, quindi ce l'ho e non mi costa tra virgolette nulla, salvo i 10 euro quando l'hanno emessa. Mi carico il mio abbonamento, la mia tessera scadrà nel 2018 come carta, quindi al di là dell'abbonamento che devo rinnovare, mi carico i biglietti. Se devo fare due appunti, sono dal punto di vista tecnologico, perché quando mi è capitato nominativo non cambiato, arrivi all'ultimo minuto, il tornello non va e impazzisci in giro per i vari uffici che ti rimbalzano di qua e di là. E poi il discorso che è gestito da una banca, allo sportello della banca c'è una persona che non è un professionista dei biglietti e spesso non è colpa loro, per l'amor di Dio, questo è l'unico appunto che si può fare. Per quanto riguarda l'unico dubbio che ho io, perché io apprezzo la carta del tifoso, la testa del tifoso, l'avrei preferita generica, cioè messa solo dalla federazione, poi dopo io vado a caricarmi, quindi se c'è il veto per cui quelli che abitano a Varese o a Milano non possono andare a vedere determinate partite, ok, non posso andarci, perché ad esempio devo andare, mia moglie è juventina, volevamo andare a vedere la Juve, non col Milan, non so se potrò andare perché ho la tessera del cuore rosso, potrò usare la mia come tessera del tifoso, queste cose qua non sono spiegate chiaramente. Ultima cosa, poi scappo, altra cosa che non so com'è, però si parla dell'Inghilterra, passerò Capodanno a Londra, e non potevo farmi sfuggire di andare a vedermi Fulham Arsenal al 2 di gennaio, e ho fatto tre tessere del tifoso del Fulham e sono andato e andrò a vedermi la partita. Non so se poi il Milan un domani giocherà col Fulham a Londra, se mi faranno entrare come tifoso del Milan o come tifoso del Fulham. Non gliela auguro, perché vorrebbe dire Europa League per il Milan, insomma, mi pare che possa ambire a qualcosina di più, soprattutto con il gioco, no? Abbiamo sentito. Sì, le tessere del tifoso italiano sono nate, almeno nelle intenzioni, come le Fidelity Card che vanno di moda in Inghilterra. In Inghilterra sono una tradizione, funzionano e sono soprattutto facili da ottenere e facili da gestire. E dire che in Italia c'era stato il tempo per prepararsi, perché l'applicazione delle tessere del tifoso ha richiesto un anno e mezzo che i club appunto volevano per far sì che il sistema funzionasse. Poi, come succede in Italia, purtroppo si è corsi all'ultimo momento e tutte queste complicazioni sono frutto di quella fretta. Tornerà d'attualità anche il bilancio che ieri sera Berlusconi ha fatto dei trionfi della sua presidenza in rapporto a quella di Bernabeu. Luciano Labiella scrive: beh, se uno fa giocare come il Barça una squadra di ottimi dilettanti, potrebbe anche candidarsi a Premier. Questa è abbastanza feroce, caro Luciano. Io ringrazio Marco Bellinazzo per essere tornato qui tra noi, Pietro Lacorte in regia, Franco Piattanini in redazione. Buon pomeriggio a tutti.